Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Otto e 35 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. E siamo qua, cari ascoltatori, siamo qua. 800 24 00 24, mi volgo. Milano Monterosa? Il solito freddo, ma c'è già un po' di sole. Visto che la domenica iniziamo un po' dopo, c'è già il sole. Mentre quando lo diciamo il sabato c'è solamente sono le nebbie e dei lupacchiotti che camminano ancora qui in mezzo pinguino alla neve, esatto. Dovete sapere che io chiedo a Carlo, Milano Monterosa, le previsioni del tempo, com'è il tempo. Perché in studio noi siamo rivolti così. Io sono rivolto verso il nulla, cioè verso l'intera, anzi verso la regia, verso il regista, cioè il posto Carmelo Lauricella quest'oggi, naturalmente. E io verso il mondo. E lui verso il mondo, verso fuori. Quindi è solo Carlo che può dirci come sta andando là fuori. Cosa giusto, succede? Giusto, hai fatto bene a sottolinearlo, perché magari qualcuno pensava che io fossi un esperto meteorologo. Invece sì, non è così. È semplicemente che io ho la postazione verso la finestra. Non vuoi fare concorrenza a Paolo Corazzon? Questo no, no. Allora, cari ascoltatori, stiamo insieme fino alle 10 anche oggi. Naturalmente, come ogni domenica, cerchiamo un personaggio della settimana. E chi indovinerà per primo, anche questo, forse è l'ultimo settimana in cui diamo i biglietti di Basquiat per il MUDEC di Milano, poi forse cambierà, quindi affrettatevi. Se ci tenete a Basquiat, state bene in ascolto. Allora, il personaggio di questa settimana, il primo indizio che vi andiamo a dare è questo: è un personaggio inaspettato. Quindi pensate un po', cosa è successo negli ultimi 7 giorni. Non ridere, Carlo. Dico che è perfetto, è l'indizio perfetto. Un personaggio inaspettato. 800 24 00 24. Adesso cominciamo con una cavalcata tra alcune notizie di questa settimana e poi, dove è possibile, portiamo un po' il sole. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. We will follow 2 simple rules. Buy American and hire American. E va bene, la settimana di Donald Trump. Beh, sì, abbiamo sentito tutto il discorso, che è stato anche piuttosto breve, devo dire, me lo aspettavo più lungo. Dicono che è stato uno dei discorsi più brevi di post giuramento, di insediamento di un nuovo presidente, però posso dire soprattutto una cosa? Con dei pezzi scritti anche dal Movimento 5 Stelle, quindi è interessante, nel senso perché? Che beh, la prima cosa che ha detto oggi, da oggi finalmente il popolo non siamo più noi politici a comandare, ma siete voi. Poi vai a vedere chi ci sono nei posti di comando, mi sembra che quello che guadagna meno guadagna 75 fantastigliardi al secondo. Però Donald Trump, devo dire una cosa, parla un inglese, cioè io capisco tutto quello che dice, forse è il primo presidente americano che parla, si capisce, io capisco tutto quello che dice. Beh, parla bene inglese, americano, insomma. No, mi sembra è la prima cosa mi sembrava interessante che dire è il primo presidente americano che parla bene inglese. Comunque va bene, America first. Allora, lui c'era. Forse lo capiamo perché non lo parla così bene, cioè di solito si dice, lo si capisce bene quando parlano gli stranieri fra di loro l'inglese. Questo signore che andiamo a sentire è uno dei pochi italiani invitati alla cerimonia e, insomma, alle feste che ci sono state prima dell'insediamento. In tanti avrebbero voluto esserci, forse non tutti, ma in tanti. Lui però c'era. Avere un presidente amico è un onore andare negli Stati Uniti domani, perché credo sia una cosa unica che ti può succedere una volta sola nella vita, per cui approfittiamone. Allora, intanto nel ricordarvi che stiamo cercando un personaggio della settimana all'800240024, vi rinnovo il primo indizio, un personaggio inaspettato. E sentiamo un po', risentiamo queste note. La notizia di questa settimana da cui partiamo è: la Camera dice sì ai ristoranti in appartamento. È un si può fare interrogativo che riguarda un settore come questo recentemente esploso in Italia, dei ristoranti casalinghi o fai da te o in appartamento, detti home restaurant. È un si può fare di sicuro. Adesso la cosa da capire è se si può regolamentare, ma si esatto, può fare. Esatto, è arrivata una legge, tra l'altro approvata a larga maggioranza, come capita raramente. Alcuni promotori di questi home restaurant però hanno qualche critica da eccepire, e allora, siccome vogliamo sentirli, abbiamo convocato Giambattista Scivoletto, amministratore del portale bedandbreakfast.it e homerestaurant.com. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. E allora, io direi di fare così: andiamo punto per punto su questa legge, se sei d'accordo, e ci dici che cosa ne pensi tu, che sei comunque un rappresentante di questo movimento di, come vogliamo chiamarli, home restaurant. Avete una dizione alternativa, no? Perché poi va bene il così. Nome home restaurant, il nome home restaurant è nato, cioè l'home restaurant non è nato in Italia, è nato in America, quindi diciamo noi abbiamo mutuato la dizione home restaurant. Poi, se vogliamo chiamarli ristoranti a casa, dal punto di vista del marketing non funziona meglio, preferiamo continuare a chiamarli home restaurant. Le parole in italiano non funzionano, però devo dire che ieri l'Accademia della Crusca ha bacchettato il Parlamento, perché almeno voi in Parlamento, invece di dire home restaurant, potreste provare a utilizzare una espressione in italiano. Allora è venuto fuori ristoranti domestici, che è un po' tristino, che effettivamente è peggio, intristisce. È come chiamare la sacra torte la torta sacra, ecco. Meglio usare il nome che è stato questa non è male. Però io dico, continuiamo a pensarci su, magari ci viene in mente un'idea divertente, che può essere anche un marchio, tipo le casse particolari a Cuba, no? Per esempio, dove si va a mangiare l'aragosta. Ecco, quello è un nome bellissimo, invece, che ti viene voglia di andarci di più che a un home restaurant. Allora, cominciamo appunto la legge. Uno dei punti fondamentali è il tetto, diciamo, dei 5.000 euro di fatturato, oltre il quale scatta l'attività deve essere regolamentata. Sotto questa soglia, più o meno, uno può continuare a fare quello che gli pare, come è successo fino ad oggi. Giusto o sbagliato? No, io non è che si sia capito moltissimo, perché gli home restaurant adesso, per operare, devono registrarsi obbligatoriamente su una piattaforma digitale, quindi su un portale web che acquisisce pagamenti per loro conto. Cosa succeda oltre ai 5.000 euro di volume, quindi lordi, la Camera ha imposto anche il numero di 500 coperti, quindi io immagino che al 501esimo non si possa più fare nulla, si debba sparire. Cioè, quindi i 5.000 euro e i 500 coperti sono una soglia oltre la quale non si può proprio andare. Questo è quello che sembra dire la legge, per quello noi la contestiamo, perché non è chiara e non agevola affatto l'home restaurant. Io penso però possiamo dire una cosa, possiamo dire una, questo è un punto che, su cui magari potrà esserci una modifica negli aspetti attuativi della legge eccetera, però è giusto che ci sia una soglia, questo sembra molto ragionevole, credo che siano dei punti intorno al quale anche si è raggiunta questa ampia maggioranza, oltre la quale l'attività sfugge a un puro divertimento, a un puro passatempo, a un puro integrazione del reddito, ma diventa altro, cioè una, magari una forma anche di concorrenza rispetto ai ristoranti veri. Ma io siamo d'accordissimo, l'unico punto su cui si doveva ragionare era su come far pagare le tasse, cioè le tasse si devono pagare sempre su tutto e su quello siamo tutti d'accordo e anche gli home restaurant lo sono. Il fatto è che la norma sulle attività saltuarie c'è già, sì. Un'attività è saltuaria fino al raggiungimento di un certo numero di fatturato, al partire dalla quale poi deve aprire partita, superando il quale si apre partita IVA, si fa posizione IMSS e una famiglia che fa home restaurant deciderà poi autonomamente, secondo la legge fiscale che già esiste, se continuare a farlo in maniera saltuaria, quindi rinunciando a eventuali nuovi ospiti, oppure farlo normalmente. Il timore dell'evasione fiscale secondo me non è giustificato, perché se aprono 10.000 home restaurant e difficilmente faranno un giro superiore a 5.000 euro di media, perché già i B&B che esistono da 15 anni la media del giro d'affari annuale è di 6.600 euro, quindi siamo lì. Ora le tasse in Italia si pagano su un fatturato, si pagano in maniera minima sotto i 5.000 euro o addirittura nullo. Beh, però dipende quindi anche dal titolare di questo reddito, se ha altri redditi, in quel caso poi il tutto rientra in una tassazione più alta. Ma mi scusi, ma quindi non siete preoccupati che sia troppo basso? Nel senso che lei dice difficilmente riuscirà a fare più di 5.000 euro, perché io invece pensavo che fosse una limitazione troppo restrittiva, nel senso che, ripeto, stiamo parlando di quanto si incassa, non di quanto cioè di quanto si fattura in tutto, quindi su 5.000 poi uno dovrà comprare il cibo, dovrà pagare tutto, gli resteranno 1.000 euro. Esatto, ma le 5.000 euro infatti dovrebbero essere di reddito, non di non dovrebbero essere lorde, perché effettivamente è una quella lì è una delle limitazioni, ma quella che io vedo più come la limitazione più forte è l'obbligo di registrazione alle piattaforme digitali e l'obbligo di acquisire i pagamenti in forma elettronica. Perché questo è l'altro punto. Questo è l'altro punto. Adesso un altro paio di punti li enuncio, poi li commentiamo dopo il traffico. Sono quello che dicevi tu, appunto, Giambattista, che è l'obbligo di pagamento elettronico, un obbligo che non hanno, per esempio, i ristoranti. Però tant'è. Poi ci sono altri obblighi burocratici, tipo la dichiarazione di inizio attività commerciale, la certificazione sanitaria, l'assicurazione obbligatoria sulla casa e poi il divieto di accoppiata con attività tipo bed and breakfast. Ci arriviamo tra un attimo, però 800 24 00 24, ascoltatori, se volete già chiamare per commentare, noi siamo qua. E allora, eccoci qua di nuovo in compagnia di Giambattista Scivoletto, amministratore del portale homerestaurant.com, con il quale stiamo commentando l'approvazione di questa legge che appunto dà per la prima volta regolamenta l'attività dei ristoranti domestici in appartamento o home restaurant cosiddetti. Allora, la questione degli obblighi burocratici, certificazione sanitaria, assicurazione sulla casa, dichiarazione inizio attività commerciale, su questo avete qualcosa da dire oppure diciamo, si rientra nella normale burocrazia italiana, che però nel caso della certificazione sanitaria sembra abbastanza incontestabile? No, infatti anche il certificato HACCP noi eravamo favorevoli a questo qua, noi nelle nostre proposte lo avevamo anche menzionato. Bene, quindi questo lo possiamo depennare tranquillamente, non è un problema, siamo tutti d'accordo. Va bene. La questione invece del divieto di accoppiata con attività tipo bed and breakfast, che evidentemente quindi se uno ha un bed and breakfast non può fare neanche una cena di home restaurant, neanche non può proprio farlo. Io le do alcuni dati, il 70% di chi va in bed and breakfast amerebbe anche poter provare la cucina tipica a casa direttamente della famiglia in cui si trova. E il 30% dei bed and breakfast vorrebbero fare un restaurant. Quindi partiamo da questi dati. Il fatto di impedire la possibilità di fare un restaurant all'interno del B&B, io non ho capito perché è stato introdotta. Ah, ecco, volevamo chiederglielo, infatti. Diventa quasi una discriminazione in più rispetto a... Se non... non agli avvocati, ad esempio. Sì. Ma secondo me è perché proprio la legge parte con lo scopo, nemmeno tanto nascosto, di non farli sviluppare. Perché questa, l'accoppiata, il divieto di farlo in bed and breakfast, o se hai, o se affitti una casa, una, sì, o se affitti la casa o una camera, e la, l'obbligo di registrazione alla piattaforma, che io, guardi, abbiamo fatto un sondaggio, il 90% con queste due non riuscirà ad aprire. Non riuscirà, non che non vorrà aprire, ma non riuscirà ad aprire. Quindi, no, certo, ma anche perché è comprensibile, visto che stiamo parlando di ristoranti all'interno delle case, dove spesso magari sono delle signore anziane che cucinano, esatto, benissimo, esatto, e che decidono di fare questo per arrotondare la pensione, se gli si chiede di fare il pagamento online, cosa che è una difficoltà anche per grosse strutture che non riescono ad avere il bancomat, ci mancherebbe per una signora che deve, giusto? È di questo che stiamo parlando. E poi esattamente proprio quello lì, l'anima di quello che potrebbe essere l'home restaurant come lo immaginiamo noi, ovvero l'ospitalità familiare per far assaggiare al mondo le ricette, i piatti tipici come si fanno in famiglia, tra l'altro lo diciamo tutti, buono quando si va a mangiare al ristorante, ma non come quello che fa mia mamma o come quello che fa mia nonna. Certo. E che secondo noi era quello il punto, cioè una la possibilità di far assaggiare i piatti, le ricette dimenticate, ma della tradizione familiare, che non si trovano nel ristorante. Cioè noi non immaginiamo di aprire a casa un ristorante, no? Cioè, forse il nome home restaurant è il nome restaurant che andrebbe tolto. Ma siccome non sono nati in Italia, noi magari l'avremmo chiamato in un altro modo. Certo. Quindi noi abbiamo preso l'idea, sì, e stiamo cercando di farla sviluppare, però secondo un concetto che è quello del travel eating, cioè anche lì in inglese, perdonatemi, ma viaggiare e immergersi nell'atmosfera familiare, come facciamo già con, certo, i bimbi, anche dal lato gastronomico. Quindi sono delle tavole conviviali. Sì, come esistono ad esempio anche in Francia le table d'hôte, lì sono sviluppate, sono tanto quanto le chambre d'hôte. Però, mi sembra che il problema di fare il pagamento online è sostanzialmente per garantire un controllo, perché effettivamente è molto difficile se uno in casa sua invita delle persone, fa pagare per la cena, diventa difficile per la guardia di finanza sapere o rintracciare questa spesa. Immagino che sia questo il motivo, o ci sono altri motivi per dover fare tutto online? Ma se il motivo è una maggiore trasparenza, limitare, diciamo, l'evasione fiscale, certo, allora hanno sbagliato mira, perché l'home restaurant nel 2014 ha fatto 7 milioni di giro, nel 2015 ne avrà fatto 10. Se si esploderà come volevamo noi, se sarebbe esploso come avremmo voluto noi nel 2016, 17, 18, avrebbe fatto 50 milioni di fatturato. Il ristorante ne fa 76 miliardi. Ora, se certo, limitiamo a parità di evasione fisiologica... Sì, però è vero, mi chiedo scusa, Giambattista, da qualche parte bisogna sempre iniziare per regolamentare tutte le attività. È chiaro che con questo confronto allora potremmo considerare esentasse una serie di attività che complessivamente contano meno dei ristoranti. No, io credo che la questione fiscale ci sia, però forse si poteva trovare un'altra soluzione. Prego? Io una sola cosa voglio dire. Sì. Cioè, come tutte le attività saltuarie hanno delle regole fiscali, allora noi chiediamo di essere controllati al pari di tutte le altre attività saltuarie, come sono, possono essere, non lo so, le sarte o qualsiasi altra attività. Certo, e non di più. È inedita questa forma di controllo fiscale che per le altre attività, noi lo auspichiamo per tutti, ma per le altre attività non si fa, perché le limiterebbe. Quindi, capisce, da noi si fa a prescindere, si dà per scontato che questa attività saltuaria. Ok, mi sono spiegato. No, sì, chiaro, sì, no, benissimo, benissimo. Noi ti ringraziamo intanto Giambattista Scivoletto di homerestaurant.com per averci dato un punto di vista dei titolari, insomma, promotori di ristoranti domestici in Italia su questa questione, che sicuramente può essere migliorata. C'è da segnalare anche il punto di vista delle Cesarine, che è un comunicato che ci è arrivato, un network di 300 cuoche massaie che custode la tradizione culinaria regionale italiana, che sono favorevoli all'iniziativa, cioè alla regolamentazione per legge. Dice: finalmente abbiamo una legge che regola le nostre attività. Ebbene, 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo per commentare. Questo si può fare se vi ha convinto la legge o se vi ha convinto di più le critiche di Giambattista. Intanto sentiamo Claudio dalla provincia di Imperia, da Imperia. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto mi devo complimentare con Radio 24, che è la radio più bella che c'è in Italia. Ma io direi al mondo anche, tranquillamente. Al mondo, sì, sì, sì. Bene, giusto, giusto. Poi? Poi, non ricordo il titolo della vostra trasmissione, però e non ricordavo neanche il nome del personaggio sconosciuto. E qui andiamo malissimo, però. Beh, il titolo della trasmissione si può fare, quindi si su quello. Il nome del personaggio devi dircelo tu, l'indizio, se vuoi te lo ricordo, un personaggio inaspettato. Allora, avevo detto Elisabetta Gregoraci e poi mi è venuto in mente, ho ritelefonato e ho detto Briatore. Ah, Briatore inaspettato dove? Quando? Non ho capito. No, dico Briatore inaspettato, immagino, non ho tempo per chiedertelo Claudio, alla cerimonia di Trump, del giuramento di Trump. Questa era la notizia. Però non era lui il personaggio, eh? Quindi cercate ancora 800 24 0024, ci risentiamo dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Spazio! Corridoio! Bravo! Bravo! Bravo! 9-8 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica. Questo si può fare, avete appena sentito l'audio che è già in qualche modo è entrato nella storia di tutti noi, del salvataggio di una delle persone all'hotel Rigopiano. E questa settimana, questa è stata sicuramente una notizia forte, tanto che lo stesso giorno del giuramento di Donald Trump, sicuramente in molti non si ricorderanno del giuramento di Donald Trump, perché in quella giornata siamo stati tutti incollati ai televisori e alle radio per sentire la cronaca di quei salvataggi. Che tra l'altro si tirano dietro anche delle polemiche per come sono stati trattati in televisione. Sentiamo un pezzo di Barbara D'Urso che durante la sua trasmissione televisiva su Canale 5 ha non solo ricordato il fatto che lei in quell'hotel c'è stata più volte, ma poi, cosa che è stata molto criticata, ha utilizzato delle immagini girate da lei di gente felice e festante, le stesse persone con le quali nei stessi minuti si stava collegando per fare la cronaca macabra di quello che stava accadendo. Sentiamo. Io innanzitutto voglio fare vedere a casa com'era l'albergo prima e come dopo. Dentro abbiamo messo anche, perché avendo avuto io la fortuna di abitare là dentro per tanto tempo, ho anche tantissime foto, tanti video anche che ho fatto all'interno, appunto, che adesso vi farò vedere. Tutto normale, cronaca in diretta, o si è superato anche questa volta un'ulteriore soglia, come qualcuno ha scritto, detto, di oltraggio alle persone, alla memoria delle persone e alla vita delle persone coinvolte nella tragedia di Rigopiano. 800 24 00 24, io non ho un'idea particolare su questo, devo dire, forse far vedere le immagini di gente che festeggia in quel momento è stato sbagliato proprio da un punto di vista emotivo, anche non l'avrei fatto, però naturalmente senza dubbio c'è da ricordarsi che ci sono ancora persone che stanno sperando che i propri parenti siano salvati, quindi è un momento particolare. Poi insomma di momenti di sciacallaggio su questa vicenda ce ne sono stati talmente tanti che è difficile farne una classifica. Mi sembrano più gravi quelli da parte dei politici che lo fanno per un altro scopo piuttosto che da parte di una giornalista o conduttrice che cerca di in qualche modo di raccontare quella storia. Eccola, in questo momento, adesso ci arriviamo. In questo momento dove in realtà insomma Barbara D'Urso è più sulla vicenda della ragazza incendiata, che mi sembra che si sia varcato il limite, ovvero dicendo che ci sono uomini che bruciano le proprie donne per troppo amore, poi insomma è stata rettificata, però mi sembrava più grave quella vicenda piuttosto che questa. Cari ascoltatori, 800 24 00 24 per commentare tutto questo, ma anche per giocare con noi. Ve lo ricordo, stiamo cercando un personaggio della settimana. Abbiamo detto che è un personaggio inaspettato il primo indizio che vi abbiamo dato, e tu accennavi alle polemiche e alle strumentalizzazioni politiche. Sentiamo allora alcune voci, cominciamo con Salvini. Qualcuno ha sbagliato, qualcosa non ha funzionato, i soccorsi sono arrivati in ritardo, c'è stata disorganizzazione, non c'è stata una corretta valutazione di quello che succedeva, ci sono ritardi nella consegna delle casette, delle stalle mobili. Che non si è compreso il meccanismo e soprattutto sta offendendo il lavoro di un paese, perché questo è un sistema paese, non c'è qualcuno che è in ritardo o in ritardo, sono insieme che stiamo portando avanti queste situazioni, dai sindaci alle strutture operative. E questo era il capo della Protezione Civile Curcio, che proprio rifiuta l'idea stessa che ci possa essere stato un ritardo. Secondo me sbaglia, perché si può anche ammettere che qualcosa non ha funzionato, che c'è stato qualche errore, che forse ci poteva essere un'ordinanza che obbligava lo sgombero dell'albergo in quella valle con 3 metri di neve, non lo so, però non si può escludere a priori che ci sia stato. No, non si può escludere, ma forse non è il momento della polemica, forse nel momento in cui si sta ancora cercando di tirare fuori qualcuno dalla neve, soprattutto continuamente parlare. Si è parlato di ritardo prima che iniziassero praticamente le operazioni di salvataggio, si è continuato a parlare di ritardo mentre la Protezione Civile salvava alcune persone che erano dentro da 48 ore. Ecco, diciamo che un po' si è parlato di ritardo giusto per parlare di ritardo, per lamentarsi, poi dopo si faranno tutte le valutazioni, se ci sono stati degli errori ovviamente si farà in modo di correggerli. Allora andiamo con Andrea che chiama da Vicenza. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno, benvenuto anche a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Io chiamavo per il personaggio della settimana. Chi è? Secondo me Dominique Paris, che ha vinto per la terza volta la discesa di sci di Kitzbühel, entrando un po' nella storia dello sci. Hai dato la notizia c'è, la definizione corretta dell'avvenimento, un po' inaspettato, anche se questa è una buona stagione per lo sci italiano, quindi cominciamo a quasi a farci l'abitudine a questi bei risultati. Non era lui comunque il personaggio, Andrea? Niente, grazie. Grazie mille d'aver chiamato. Grazie a te. E allora andiamo con Giovanni da Milano, vediamo se ci arriviamo. Giovanni, vai. Io penso che sia Maria De Filippi la partecipazione a Sanremo. Perché lei è stata confermata come braccio destro, chiamiamolo così, co-conduttrice di Carlo Conti al Festival di Sanremo, e in effetti non è lei la risposta esatta. Giovanni, grazie. Grazie. Vabbè, insomma, ci poteva stare, ci poteva stare. Assolutamente. Però no. Gaetano da Roma, vai. Gaetano. Salve a tutti. Salve, sì. Buongiorno. Prego, tocca buongiorno a te. A tutti i radioascoltatori. Credo che il personaggio sia l'ex ministro Giulio Tremonti alla corte di Trump. Che perché è stato uno tra i pochi italiani che ha ricevuto l'invito ufficiale per andare alle celebrazioni pre, post, eccetera, giuramento di Donald Trump. Giulio Tremonti, inaspettato. Beh, insomma, poteva anche essere aspettato invece da un certo punto di vista, ma non è lui. Soprattutto non è lui, Gaetano, mi dispiace. Però è stato un modo anche questo per ricordare questa notizia. Allora, andiamo con Matteo, sì, dai, dalla provincia di Monza, vai. Così. Buongiorno a tutti. Vai, Matteo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono un ristoratore, lo faccio da 25 anni. Sì. Noi diciamo, e sono anche un responsabile di categoria, E noi diciamo stesso mestiere, stesse regole. Molto semplice questo, potrà dare fastidio, però fai da mangiare, devi rispettare le regole dei ristoranti, sì. Perché se no nel nostro paese non si capisce più nulla. Allora c'è Uber, ci sono le macchine noleggiate a livello personale, cioè c'è il tentativo, questo è figlio della crisi questa situazione, perché ognuno vorrebbe tentare di portare a casa qualche euro in più per stare in piedi, e allora c'è chi affitta la macchina, chi fa Uber, chi fa l'uomo ristorante, e allora o il governo liberalizza tutto sul serio, allora alla guerra come alla guerra, però se le regole ci sono, stesso mestiere, stesse regole. È molto giusto. La cosa che le vorrei chiedere è in realtà se veramente si tratta dello stesso mestiere, nel senso che fare da mangiare per due persone nella propria cucina, se è lo stesso mestiere che aprire un ristorante con 100 coperti. Se uno si sente male perché dai da mangiare due persone, chi ne risponde? No, ma questo è giustissimo, non sto dicendo che non devono esserci le tutele, mi stavo chiedendo se effettivamente si trattava dello stesso identico mestiere, non fa una grinza il discorso che fa lei dice stesso mestiere, stesse regole, io faccio il ristoratore, Matteo, pago tutto, sì. Devo avere i controlli, se non ho un'uscita di sicurezza mi fate chiudere, e invece c'è qualcuno che può al 14° piano invitare qualcuno che se cade dalle scale non succede niente. Poi, cari amici, scusatemi, come dire, anche per ironizzare, ma voi vi immaginate che la Guardia di Finanza alle 9 di sera va in un palazzo a suonare a una casa privata? Ma no, ma non ci va, non ci va. Matteo, l'unica risposta che si può dare alla tua domanda, che io personalmente do alla tua domanda, è questa: quando vai in un ristorante, sai che entri in un pubblico esercizio e hai delle garanzie, delle tutele da questo punto di vista. Se vai in un ristorante domestico a casa di Tizio, sai che stai facendo un'altra cosa, esattamente come appunto quando vai in un bed and breakfast, non vai in un albergo, eccetera. E si tratta di consapevolezza, saperlo. Dopodiché poi delle regole sicuramente ci dovevano essere e ci saranno, infatti la legge è stata approvata. Si discuteva, grazie Matteo, del merito di questa legge, che però ricordiamo, per una volta c'è stata un'ampia maggioranza. Quasi solo la Lega forse non l'ha votata questa legge, quindi vuoi vedere che per una volta abbiamo centrato il punto. Chissà. Però posso dire, vuoi vedere, sì, forse che per una volta, in realtà, anzi per una volta come tante volte, non va bene un po' a nessuno, nel senso che mi o sembra di capire che non va bene, no, va bene a tutti i politici, ma sia i ristoratori, come sentiamo, sia coloro che vogliono fare un ristorante casalingo a casa propria, non sono tanto contenti. L'elenco degli insoddisfatti è lungo, e questo però non è una novità. 800 24 00 24, vi aspettiamo col personaggio della settimana inaspettato e con tutto il resto tra poco. Al borghese viene rabbia quando il proletario sbanca, ti guarda come Salvini guarda un tunisino che si è fatto mi spadaglia. Io dico sempre a Fedez, non farti selfie in barca, che poi vengono i ladri o gli ispettori di Equitalia. Nascondi i tuoi risparmi come amanti minorenni, o giornalisti poi ti prendono a testate indipendenti. Piacere a quelli è una questione di design, fatti una vigna sui castelli, non l'attico a City Life, life. Conosco più di un pancabestia col papà avvocato che fa finta d'essere povero perché non lo è mai stato. Io mi contraddico come un pacifista armato, sono partito comunista ma non ci sono arrivato. Che Guevara e Fidel Castro facevano collezione di motociclette inglesi, di Rolex e di cuore di un punk rocker, vuole la rivoluzione però si innamora di una top model. Basta rap, rock, house, un po' Manu, ciao sul Range Rover, ti fermi dalla cover, canto bella ciao, bella ciao, ciao, bella ciao, yeah. Fedez e J-Ax con Comunisti con Rolex, il loro ultimo disco, e questo è il singolo tratto da, appunto, dal disco che porta lo stesso nome, che pure sta già facendo un po' discutere, perché loro vanno orgogliosamente dicendo si può essere rivoluzionari, si può essere forse di sinistra, non lo so se questo gli interessa o meno, ma insomma si può essere anche ricchi, meritatamente arricchiti con merito. Ma non è questo di cui vogliamo parlare. Intanto diamo il buongiorno, la buona domenica a Vauro. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, intanto ti voglio chiedere se conosci, se segui J-Ax e Fedez, Vauro, se ti interessano, se ti piace. Qualcuno dice sono gli eredi dei cantautori, che invece sono più sicuramente nel solco della tua storia. Sì, diciamo che Guccini e Paolo Conte sono più nel solco della mia storia, però mi capita di sentire anche FedEx e J-Ax, perché sono vecchio, ma insomma ancora non completamente sordo. Ti piacciono? Sì, sì, li trovo interessanti. Trovo interessante anche questa ultima canzone, che credo che sia molto ironica, sì, perché questa, non so se si può dire la parola in radio, pippa dei comunisti con Rolex, è un leitmotiv di questi tempi. Anche dei tempi passati, direi, abbastanza, o sbaglio? Sì, ma adesso si è radicata, no? Ci sono tanti cliché. Per esempio, oggi uno che sa leggere e scrivere è un radical chic. Certo. Cioè, basta già saper leggere e scrivere, queste queste è già un radical chic. Sì. C'è i 30 anni di berlusconismo e non solo hanno fatto sì che l'ignoranza sia un valore e la cultura sia un disvalore. Ecco, avere Mauro è sempre bello per questo, perché col suo punto di vista è intellettualmente onesto, però non te la manda a dire. Allora Mauro, ti abbiamo chiamato per questo, a chiacchierare con noi. Stiamo un po' abbandonando i nostri si può fare, le notizie, per entrare nel dibattito, no? Quello, il dibattito importante, quello che conta. Questa settimana ci sono due notizie che riguardano la politica e l'economia che ci hanno colpito. Uno è l'aumento delle disuguaglianze nel rapporto di Oxfam, secondo cui qualcuno ha criticato questo rapporto perché semplifica troppo, però insomma di fatto 8 super paperoni che hanno la stessa ricchezza di metà dell'umanità, o anche semplicemente l'1% dei più ricchi, che ha lo stesso patrimonio di tutto il resto del 99%. E poi a Davos, il forum di Davos, riuniti tutti i grandi capoccioni del mondo, Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, dice bisogna stare attenti, bisogna redistribuire il reddito, e sembrava di sentir parlare Bertinotti, una roba che non si è mai sentita. E allora ci siamo detti, vuoi vedere che la rivincita dei comunisti, razza quasi in via d'estinzione ma che gode sempre di un elevato livello di citazioni nei discorsi, e abbiamo chiamato te, Mauro. Che effetto? Vi ringrazio. Beh, lascerei perdere Bertinotti, sì. Devo dire, Bertinotti è occupato con Comunione e Liberazione, ha scoperto diciamo una sua versione mistica del mistico affaristica del che effetto ti ha fatto sentire? Se penso a Bertinotti, penso a Rosa Luxemburg, che disse o socialismo o barbarie, no? Beh, ci siamo a questo bivio, perché anzi l'abbiamo oltrepassato da un bel po', abbiamo imboccato la barbarie, abbiamo imboccato totalmente la barbarie. I dati dell'Oxfam ne sono la dimostrazione totale. La signora del Fondo Monetario dice una cosa che a buon senso sarebbe ovvia. Il problema è la redistribuzione della ricchezza, ma per la redistribuzione della ricchezza ci vuole una visione culturale e politica molto profonda, no? Bisogna riscoprire il valore del bene comune. Vedi questa desinenza, questa radice di questa parola comune che torna, no? E purtroppo non si intravede una E questo mi sembra un punto, però, Mauro, importante, e sono d'accordo con te. Non si intravede, anche se poi diciamo a contraltare di questo rapporto dell'Oxfam si potrebbe dire che i poveri del mondo non sono mai stati così ricchi, perché contemporaneamente ci sono statistiche, anche queste forse da prendere con le pinze, che parlano di una diminuzione netta negli ultimi 30 anni dei livelli di povertà, proprio milioni di persone che sono uscite dai livelli di povertà, ma a parte molti perché muoiono, no? Si esce anche così dalla povertà, si muore nel Mediterraneo. Detta così è un po' macabra, però ecco, no, no, ma è letteralmente così. Sulle statistiche, come diceva qualcuno, i numeri si possono stiracchiare in tante direzioni, però prendiamo per buono il rapporto dell'Oxfam sulle disuguaglianze. Della povertà li stiamo vedendo, insomma, no? Non c'è bisogno di statistiche, non c'è bisogno di statistiche. Però la domanda è questa, Mauro. 5.000 morti annegati nel Mediterraneo. Sì. E da questa parte abbiamo chi strilla all'invasione, a chissà cos'altro, addirittura all'emergenza immigrazione. Ma l'emergenza non sarà per questi poveracci che, appunto, per avere anche una minima chance di vita sono costretti ad attraversare il deserto, attraversare il mare in condizioni da da roulette russa. Però la domanda che ti volevo fare prima che tu aprissi questo capitolo, scusa, sui migranti, che pure ci sta, è questa. Però perché, se il tema è così d'attualità, è così sotto gli occhi di tutti, tanto che anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Lagarde, arriva a dire bisogna fare la redistribuzione del reddito per arginare i populismi, perché invece le sinistre, i comunisti, i veterocomunisti, tutti quelli che si rifanno a quel tipo di ricette politiche non se la passano bene dal punto di vista elettorale? Non ci sono paesi nei quali la sinistra al momento propone le sue ricette politiche e invece trionfano i populismi. Perché, se il problema è così vero e importante, però dal punto di vista elettorale, politico, del consenso, questa ricetta non va più di moda, Mauro? Qual è l'errore che c'è stato? Cos'è che... Sì, forse la questione, ma gli errori sono stati enormi da parte della sinistra, da parte dei comunisti stessi, non c'è ombra di dubbio, altrimenti non ci sarebbe stata una sconfitta di proporzioni storiche come quella che c'è stata. C'è stato il crollo dell'Unione Sovietica, le macerie dell'Unione Sovietica hanno cancellato anche esperienze comuniste come quella italiana, per esempio, che avevano delle grandi differenze rispetto a quella sovietica, avevano le proprie peculiarità, la propria tradizione, addirittura la propria cultura. C'è stata una foga dei vincitori a cancellare qualsiasi traccia dell'idea socialista, dell'idea comunista. Una foga anche violenta, basti pensare alle guerre che si sono succedute, alla guerra in Jugoslavia, e anche in seconda battuta alcune guerre nel Medio Oriente, al di là delle definizioni di feroce dittatore dell'uno o dell'altro, poi spesso dittatori messi e appoggiati dall'Occidente, quello che si è voluto distruggere nel Medio Oriente era ora se no il discorso non lo voglio fare troppo complesso, era l'ipotesi batista, che era una sorta di socialismo medio orientale. Noi abbiamo passato anni e anni, e tu lo sai, insomma, no? Dove anche per dire buongiorno dovevamo premettere di essere liberali e liberisti. Però questa cura ti stiamo ascoltando come la messa, quindi è sì. Bello che hai detto non posso essere troppo complicato, ma è domenica mattina, quindi invece è giusto. Però nonostante questa cura anche di disintossicante, che teoricamente avrebbe potuto portare a tenere il buono e buttare via il cattivo della tradizione comunista, che oggi l'affermazione di Christine Lagarde ripropone anche se in altre vesti, nonostante questo i risultati sono quelli che sono. Trionfa Trump in America, per esempio. Riuscirà, secondo te, tenterà di fare qualcosa per il popolo? Lui ha detto da oggi alla Casa Bianca torna il popolo. Allora c'è una cosa meravigliosa che a quanto pare non riguarda solo gli italiani, no? Anzi, forse abbiamo fatto scuola. Questo cosiddetto popolo dovrebbe farsi guidare dai miliardari, perché è curioso che pensare che un miliardario abbia come sua priorità redistribuire la ricchezza, no? Io credo che fenomeni come quello di Trump siano indicativi di altro. Torniamo alla globalizzazione. La globalizzazione senza governo politico, quindi senza nessun limite imposto da istituzioni politiche capaci di governarla o perlomeno di arginarne gli effetti negativi, bene, uno degli effetti, fra virgolette, negativi della globalizzazione è appunto l'accentramento dell'arricchimento su pochi enormi poteri finanziari. Questo determina una frattura anche all'interno della, come vecchia parola, del mondo capitalistico stesso. Ci sono componenti di quel mondo di cui Trump fa parte che sentono il rischio di essere emarginate da questo processo e allora scendono in politica direttamente, ovviamente cercando il consenso nel modo più grezzo e più rozzo, quello del parlare, del cosiddetto parlare alla pancia, e trovano un terreno fertile, perché trovano il terreno della spesso dell'ignoranza, purtroppo, perché la partecipazione politica, quella che i socialisti comunisti un tempo coltivavano, che poi hanno abbandonato, è anche crescita culturale, e trovano la rabbia, trovano persone disposte appunto a seguirli ciecamente, assetati di una, di un guru, di una guida. Questo fenomeno lo vediamo ovunque, purtroppo è molto preoccupante. Ma secondo te, Vago, scusami, storia, no? Studiare un po' la storia sarebbe, farebbe bene a tutti, certo. Ma secondo te perché, perché la sinistra invece non riesce più minimamente ad intercettare i bisogni del paese, quella che giustamente viene chiamata a volte pancia, a volte è una rabbia pura, a volte anche solamente ignoranza, ma come mai dall'altra parte invece non si riesce ad intercettare questo e si ha la sensazione che si stia andando in un'altra direzione? Io ti ripeto, purtroppo lo dico con molta amarezza, la sinistra ha subito una sconfitta storica dalla fine degli anni Ottanta in poi, e le sconfitte io non sono di quelli che... Ma è la caduta del muro, stai dicendo? Anche la caduta del muro ne è stata diciamo una delle espressioni più eclatanti. Ovviamente non è solo la caduta, certo, del muro, però quello che non si considera mai è che c'è stata una vera e propria guerra, chiamavano la guerra fredda, ma tanto fredda poi non era, non solo contro l'Unione Sovietica, ma anche contro tutte le sinistre mondiali. C'era un conflitto, e questo conflitto è stato perduto dalle sinistre mondiali. Sì, e secondo me hai detto anche un'altra cosa giusta, che oltre a questo conflitto è che ne sono state anche un po' cancellate le memorie, nel senso che gli errori fatti... feroce di cancellarne anche l'idea, di criminalizzare. Fatemi però fare un'altra domanda a Vauro. Te lo dico così, sì, perché mi fa anche ridere. Sai che i social sono il luogo dell'insulto per eccellenza, no? E molto spesso mi insultano dandomi del comunista. Io gli rispondo: guarda che me lo ricordo che sono comunista. Guarda, lo fanno anche con me qui a Radio 24, ed che questa parola sia divenuta un insulto. Esatto, no? Ma sono riuscito. Questa parola si è messa allo stesso livello dell'altra, che è veramente un insulto, perché la storia l'ha dimostrato fino in fondo. Sì. Fascista. Però non mi fare aprire adesso alle 9:33 di domenica mattina questo capitolo. Voglio farti un'altra domanda, che è questa: il governo Gentiloni ha in mente, per regolamentare la questione dei migranti, che pure bisogna dire dal lato della gestione è stata sicuramente gestita male, permettimi la ripetizione, in questi ultimi anni. Ma c'è la volontà politica di gestirla male, tutto quello che vuoi. La proposta, una delle proposte però, è questa. Aspetta, però fammi fare la domanda, poi ti do la linea per rispondere. La domanda è questa: chi chiederà asilo, propone il ministro dell'interno Minniti, dovrà fare lavori sociali, dovrà lavorare. Ora, detta così sembra una provocazione, però è sbagliato il concetto che chi riceve un aiuto dia un contributo con lavori socialmente utili, con volontariato, eccetera. Una notizia che nessuno pare aver dato quando c'è stata questa proposta di Minniti, che fino ad oggi il richiedente asilo che lavorava perdeva il diritto allo status di richiedente asilo, cioè gli è stato proibito di lavorare fino ad oggi. Sì, era il contrario quasi, per parlare. Era assolutamente il contrario. Sì, però è giusto per ricordare che non sono loro che non vogliono lavorare, che non possono. Appunto, fino a ieri. Proibito, e se trasgredivano a questa norma perdevano lo status di richiedente. Quindi è giusto cambiare un po' le carte in regola. Assolutamente giusto, ed è anche giusta secondo me, poi vedremo come si articola l'idea di Minniti, che queste persone possano lavorare, molti di loro non chiedono altro. Certo. Ora, lì si apre una questione però, attenzione, lavorare come? Come schiavi, non spero che non sia questo, cioè dovranno lavorare. Questo paese quanto bisogno ha di lavoratori impegnati nel campo del socialmente utile? Lo vediamo purtroppo tragicamente in questi giorni, ma questo lavoro deve essere un lavoro dignitoso, no? Quindi avrà un compenso dignitoso, condizioni dignitose. Se la proposta di Minniti apre la questione della dignità da restituire al migrante, benissimo, ben venga. Bene, vedi, abbiamo trovato un punto di collegamento, questo è interessante. Carlo, va ora un secondo, Carlo, diamo il secondo indizio per gli ascoltatori, perché sennò questo personaggio della settimana oggi non lo indovineranno mai. Giusto, allora diamo il secondo indizio, che è: ha creato imbarazzo il nostro personaggio. Quindi, inaspettato e ha creato imbarazzo, 800 24 0024, cari ascoltatori, aguzzate un po', il vostro ingegno, perché tra poco dovete indovinare per forza. Caro Mauro. Eccomi. Eccolo qua. Noi, vabbè, insomma, c'è anche un tuo libro che è uscito a ottobre. Ti sei dato alla letteratura, è un romanzo, parla di scuola. Sì, parla di scuola, è il secondo romanzo che parla di scuola. Ho scritti 7 di romanzi. Buongiorno professoressa, ma mi interessa molto il tema, sì, della scuola, perché ecco, proprio parlando prima per battuta, dicevo che ormai chi sa leggere e scrivere è un radical chic, e invece c'è tantissimo bisogno di persone che sappiano leggere nel senso più profondo della parola, scrivere nel senso più profondo della parola, cioè creare idee. Io credo che l'unico luogo rimasto, anche se devastato dalle varie riforme cosiddette che si sono succedute, inclusa la ultima con quella macabra definizione di buona scuola fatta dal governo Renzi, bene, la scuola, specialmente la scuola italiana, resta ancora l'ultimo luogo di aggregazione intelligente. Io credo che gli insegnanti siano, non generalizzo, una categoria però addirittura eroica, perché in queste condizioni ci sono ancora moltissimi insegnanti, io li definisco pazzi, perché così carichi di passione per trasmettere interessi, cultura, capacità critica ai loro allievi, che fanno così che la scuola italiana sia davvero ancora, e senza le virgolette renziane, una buona scuola. Bello. Bene, vai, fermiamoci qua. Grazie Mauro, buona grazie, domenica. Grazie, ciao, mille, ciao, Mauro. A presto. Grazie, ciao. A voi, buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao. E allora, naturalmente, siccome Mauro ne dice tante, anche cose che meriterebbero commenti, punti di vista diversi, non è che io personalmente non condivido tutto quello che ha detto, una parte, un pezzetto, tutto quello che volete, però ci sembrava interessante oggi dare la parola così a Mauro. Dopo che, appunto, ripeto la notizia da cui siamo partiti, il rapporto Oxfam sulle disuguaglianze e l'affermazione un po' passata sotto silenzio, però da mettersi così, da segnarsi sul diario, di Christine Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, che parla di distribuzione del reddito, che poi è il concetto trampiano del potere che torna al popolo, faremo tutto per il popolo. Staremo a vedere se qualcuno si occuperà davvero di questo popolo. No, non mi sembra, 0, 0, 0, non 24, mi sembra 0, 0, che 0, Trump 0, abbia detto ridistribuzione del reddito, onestamente. Allora, ci dobbiamo fermare perché siamo andati lunghi, c'è la pausa, poi torniamo e cerchiamo di indovinare anche questo personaggio della settimana, che abbiamo detto, secondo indizio, ha creato imbarazzo. Vai. Lei la rivoterebbe la Raggi? Io sì, io soprattutto le darei una possibilità, che è quella del tempo, lo stesso tempo che è stato dato agli altri sindaci. A me intanto mi ha molto colpito come fu nominata, tra virgolette, da Casaleggio la Raggi. La Raggi andò a Milano, fece un provino, sapeva benissimo l'inglese, il fatto che lo parlava molto bene entusiasmò molto. E poi era una donna, era bella presenza, e fu questa la scelta. La verità è un'altra pure, che nessuno voleva prendersi la patata bollente di Roma. E allora, tra le notizie di questa settimana, l'intervista a Di Martedì, forse la prima in un programma televisivo come quello, un'intervista lunga, rilassata, a Virginia Raggi, sindaco di Roma. E poi il commento di Roberto D'Agostino, 800 24 0024. Vogliamo veloci con gli ascoltatori, con Maria Teresa da Prato, buongiorno, per cercare di indovinare, buongiorno, credo, un personaggio della settimana. Vai, chi è? Sì, sono Maria Teresa e per me è Maradona. Maradona, si meglio Pelé. E qual è la notizia legata a Maradona di questa settimana? Che è stato premiato al Salone dei 500 di Firenze per il premio Hall of Fame e si è presentato a sorpresa, praticamente. Poi c'è la notizia sul fatto che è stata a Napoli, è andato a San Carlo a fare le notizie si sprecano e volevamo ed è bellissimo perché però, non è il personaggio che abbiamo scelto, ma ti ringraziamo di aver chiamato, anche per aver ricordato il Maradona tour. Ci stimola sempre grandi entusiasmi. Sisto da Brescia, buongiorno. Sisto, buongiorno. prego, vai. Devo dire chi è il personaggio? Sì, secondo non, te. Non lo sappiamo, perché cosa hai chiamato? Sì, per questo. Perfetto, per questo. Allora prego. Secondo me il personaggio è il regalo improvvido fatto da Melania Trump a Michelle, quella scatolotta gigantesca fatta. Bravo Sisto. Bravo. È quello, hai indovinato. Stavamo quasi per dire non è un personaggio umano perché per dare una mano, però tu sei stato più veloce del nostro aiuto. Va bene. Era difficile, pensavamo in realtà, siccome erano gli ultimi due biglietti, speravamo di andare Alessio ed io a vedere la mostra, di tenerci i biglietti, invece hai indovinato, quindi ti porti a casa i due biglietti per la mostra di Basquiat e ne siamo molto contenti. Grazie, complimenti, vai. Siamo i tipi che fanno dannare. Siamo noi, proprio noi, che non dormiamo mai. Forse siamo i tipi che vi danno da fare. Se resisti, resisto, insisto anche nei guai. Così io lo dico, rifarei tutto. E qua posso dirlo, ne farei. Allora, resisti The Elite FIBA, c'è chi resiste nelle zone colpite dal terremoto e dalla neve e sentiamo come fanno a resistere. Abbiamo con noi in collegamento da Cumuli Rita Marrocchi, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Rita, che è portavoce del Comitato Terra Nostra, una di quelle persone che stanno cercando di tenere in vita, avrebbe quasi voglia di dire tenere in piedi, se non sembrasse quasi assurdo e quasi offensivo per quello che è successo a Cumuli e tutte le città colpite dal terremoto. Rita, noi ti vogliamo chiedere, intanto tu dove stai adesso, dove vivi? Allora, io vivo a Libertino di Accumoli, in una rullottina, più con la Prologo abbiamo un magazzino, infatti adesso sto dando derrate alimentari, sto mettendo dentro le buste derrate alimentari da portare in giro, perché giustamente la gente ha bisogno anche di mangiare. Certo, e per fortuna, certo, ringrazio Dio che tante persone ci hanno aiutato, sì, e tante persone ci hanno fatto fare questo magazzinetto per mandarci avanti. Ecco. Quante persone vivono nel paese? Sono una quarantina di persone, ma rispetto agli abitanti che normalmente c'erano? Sono pochi, però ecco, sono tutti allevatori. Sono quelli che proprio non hanno potuto allontanarsi, no, perché chi ha potuto... Ma non hanno voluto e non hanno voluto, è diverso. Perché molti altri stanno negli alberghi a San Benedetto del Tronto o altrove dove è stata offerta l'ospitalità. Certo, è logico, anche perché insomma ad una certa età non puoi chiedere di stare magari dentro un albergo, perché ci sono anche allevatori che hanno un'età insomma superiore ai 70. Certo, Rita, voglio chiederti anche intanto la situazione, sì, per quanto riguarda la neve, com'è lì da voi? Allora, non nevica, ringraziando Dio non nevica, ancora le strade insomma sono quelle che sono, si sta facendo perché la regione ha mandato il COI, ha fatto il lavoro coordinato con i vigili del fuoco e tutto il resto, quindi stanno lavorando. Certo, a proposito di lavori, in questo caso per spalare via la neve, ma la parte invece che a voi sta più a cuore, quella della ricostruzione, quantomeno di togliere le macerie e cominciare a fare qualche cantiere, ristrutturare, prima si vede di togliere qualcosa? Le macerie, io penso che bisogna fare un'altra cosa, bisogna fare uno studio, sì. Uno studio e dire sì, io ricostruisco, certo. in questo luogo, ma io voglio uno studio approfondito, cioè io non posso ricostruire la mia casa sopra una mina innescata. Assolutamente, cioè, ma infatti il punto è proprio questo. Ma è il punto per tutti, sì. Secondo lei, lì? Nel senso che è molto saggio quello che sta dicendo. Mi chiedevo se invece ci fosse anche una questione emozionale, che uno dice studio o non studio, io la mia casa voglio ricostruirla qui. Purtroppo per persone magari che non voglio dire niente, però per persone che blande, che dicono no, io rivoglio la mia casa, la rivoglio lì. Sì, ho capito, io rivoglio la mia casa lì, ma se sotto io c'ho qualcosa che non va, non posso riavere la mia casa lì. Certo. E il tuo punto di vista, Rita, qual è? Cioè tu, sì. Tu vorresti ricostruire lì, però con la sicurezza di quello che si fa. Cioè, ricostruire però, perché casa tua è andata distrutta. Sì, sono andate tutte e due giù. E quindi adesso tu vorresti appunto ricostruire, ma con la certezza che sia tutto fatto in sicurezza. Questo mi sembra un punto di vista giusto da ricordare, perché bisogna essere sicuri di quello che si fa. Molti esperti dicono che in effetti si può fare, che si potrebbe fare, si tratta solo di adottare dei criteri ampiamente antisismici e non come in passato con interventi palliativi. Laddove è stato fatto, per esempio, si sono visti anche i risultati e sono crollate molte meno case, addirittura non sono crollate. Come vedete, a Norcia, per esempio. Però quello che voglio chiederti, Rita, è a questo punto: c'è un avanzamento dei progetti da questo punto di vista? Hai una speranza che questo possa realmente accadere? Beh, noi con il nostro comitato stiamo forzando proprio questo, cioè stiamo veramente forzando questo, perché dire ricostruiamo su un terreno che non è, che a me non, cioè non mi dà sicurezza, io ti dico no, fermati, lascia perdere, non la voglio, dammi i miei soldini, me ne vado. Cioè, quanto, volendo provare a quantificare, quanti condividono il tuo punto di vista e quanti invece vogliono stare lì punto e basta e sono disposti quindi anche a... Ma io penso che il 50%, ma io, guardi, io non so se la sicurezza è per tutti, vale per tutti o vale solamente per un 50% di persone. Io penso una cosa, che per evitare quello che è successo, cioè 299 vittime, sono tante, tantissime, rispetto a altri terremoti in una zona così piccola. Quindi io penso, se una persona vuole tornare veramente a vivere qui, deve essere sicuro, cioè sicuro di stare dentro una casa, di non avere più mattoni in testa. Per quello che vale, sono perfettamente d'accordo. Io sto tranquillo dentro casa, come fanno in Giappone. Per quello che vale sono perfettamente d'accordo e intanto ti ringraziamo per essere stata con noi, Rita Marrocchi. Grazie da Accumuli, questa era un aggiornamento sulla situazione. E, grazie mille. Ci risentiremo sicuramente. Grazie. Traffico, siamo un po' in ritardo. Ci scusiamo con i colleghi del traffico 800 24 00 24, rientriamo tra un attimo. Separe, por favor. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir. No quiero ser igual a lo que fui. No miro más televisión, no hay nada para ver. Salgo a pasear por la ciudad. Allora, con questa celebre graffiti di Migrantes vogliamo raccontarvi questa notizia a Napoli, questa storia. Nascono le guide per la street art. Avete presente i murales, quelle cose fatte con gli spray o con le vernici, insomma, sui muri, a volte improvvisate, a volte qualcuno li considera dei osceni graffiti, altre volte sono delle vere e proprie opere d'arte. Bene, in città, a Napoli, nascono le guide per portare i turisti in mezzo a queste, che quindi vengono proprio viste come delle opere d'arte. Gennaro Maria Cedrangolo, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Allora, intanto portavoce dell'Associazione Culturale 400 ML. Sì. A proposito di, del nome che avete dato, a, io ho subito una piccola critica da fare. Napoli Paint Stories, ma possibile che anche voi utilizzate l'inglese? Ma non si può fare così. Da Napoli, usate una cosa napoletana, che ne ma so. Ma semplicemente per motivi anche di comunicazione. Tu conta che la maggior parte delle persone che vengono a fare tutto in Napoli Paint Stories sono delle passeggiate guidate, sì. Fondamentalmente sono persone straniere. Ho capito, però se vengo a Napoli mi aspetto proprio. Però Alessio, aspetto però tutto Alessio, napoletano. Apprezza invece ridere, il nome dell'associazione, che è internazionale, perché 400 ml è il contenuto di una bomboletta spray, giusto? Sì, questo ci piace. Allora, velocissimamente, perché non abbiamo tanto tempo, che certo. Tipo di itinerario avete immaginato per i turisti a caccia di street art a Napoli? No, noi questo tour già lo facciamo da un po' di tempo. Fondamentalmente portiamo le persone per il centro storico, dove praticamente nascono delle opere murali, no? Chiamate street art, gli artisti murali. E niente, noi facciamo vedere tutti gli apporti pittorici che appaiono sulle mura della città, soprattutto. Facciamo qualche nome di artisti che sono noti anche a livello internazionale. Quelli famosissimi, vabbè, Banksy, uno su tutti. Contate che Banksy viene in Italia e viene soltanto a Napoli a fare. Ricordiamolo. Banksy, poi C215, Alice Pasquini, Leo e Pippo, poi Blu, che diciamo è lo spettacolo più famoso in Italia. E poi i napoletani sono Cioppe Caffè, Diego Miedo, Arp, Zolta e tanti altri. Poi ovviamente lasciamo un po' di... Ma la domanda è, si paga il biglietto? No, perché è tutto all'aria aperta, quindi... No, si paga un biglietto ovviamente. Si paga la guida, si paga la guida. Visto che il biglietto certo. Non si può pagare, giustamente. Certo, ma tu conta che giusto. Questo sono anni di monitoraggio, no? E di sentimento di tutto quello che accade in città. E quindi c'è un lavoro dietro fondamentalmente. Va bene. Lo meritate tutto il biglietto, sì. Secondo me, lo meritate assolutamente. Complimenti. Grazie a Gianella Maria Cedrangolo, però dobbiamo chiudere, come sempre siamo un po' di corsa sul finale. Grazie Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Carmela Loricella, oggi in regia. Noi ci risentiamo il prossimo weekend, sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini e anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.